Non mi piaci! Quando fai così cazzo, non mi piaci! Non mi piaci neanche un po', cazzo! Non mi piaci, cazzo! No, non mi piaci, tu non mi piaci, tu non mi piaci, no, non mi piaci, no, non mi piaci, tu non mi piaci, tu non mi piaci, no, non mi piaci, no, non mi piaci, tu non mi piaci, tu non mi piaci, no, non mi piaci, no, non mi piaci, tu non mi piaci, tu non mi piaci, no, non mi piaci. Vuoi sentire il contrario? E ti faresti il paninaro, tu che hai la barba lunga come un cazzo di mannaro, solo per somigliare ad un rivoluzionario leggendario. Il muso alle ginocchia per essere accettato, hai cambiato guardaroba ma nessuno ti ha cagato, che metti le catene e i lucchetti a Ponte Milvio, che rubi ai poveri e dei ricchi come zio Silvio. Tu che dai per avere cose in cambio, non lo sai, non ti permetti di ladro, ma che fai, ti fai mettere a cambio, per me tu sei solo merce di scambio. Non mi piace chi compra tutto con i soldi, non mi piacciono i finti, finti, finti tonti che capisce sto giochetto di parole, bravo, il succo di frutta è di quello che parlavo. No, non mi piaci, tu non mi piaci, tu non mi piaci, no, non mi piaci, no, non mi piaci, tu non mi piaci, tu non mi piaci, no, non mi piaci, no, non mi piaci, tu non mi piaci, tu non mi piaci, no, non mi piaci, no, non mi piaci, tu non mi piaci, tu non mi piaci, no, non mi piaci. Non mi piaci quando credi di essere qualcuno colto, se mi denunci per diffamazione venga assolto, ora che il mistero per la tua demenza è stato risolto, il diritto di parlare te lo tolgo. Non mi piaci quando ridi, quando parli, quando credi che la faccia di merda che ti ritrovi sembra un volto, e me ne fotto se mi piace una che la dà solo per conforto. Non mi piace la tua donna perché ancora crede che il tuo unico pensiero ancora non è morto, ed è inutile che spera da mattino, pomeriggio fino a sera che nel mondo solo Lazzaro è risorto. Non mi piace la tua villa e neanche l'aeroplano, ed è inutile che ridi quando sei al concessionario, che lo sappiamo che ti spari se quando dicono che tutto l'hanno chiavi in mano. No, non mi piaci, tu non mi piaci, tu non mi piaci, no, non mi piaci, no, non mi piaci, tu non mi piaci, tu non mi piaci, no, non mi piaci, no, non mi piaci, tu non mi piaci, tu non mi piaci, no, non mi piaci, no, non mi piaci, tu non mi piaci, tu non mi piaci, no, non mi piaci, no, non mi piaci, tu non mi piaci, tu non mi piaci, no, non mi piaci, no, non mi piaci, tu non mi piaci, tu non mi piaci, no, non mi piaci, no, non mi piaci, tu non mi piaci, tu non mi piaci, no, non mi piaci, no, non mi piaci, tu non mi piaci, tu non mi piaci, no, non mi piaci.